Stai su Radio Wombat e questa è Hot Words. Buonasera amici, amicissimi, grazie a chi ci sta ascoltando a un probabile tavolino con della birra di fronte. E vi faccio sentire subito il primo pezzo, che sono i Polemiche. Polemiche hanno suonato al Next Emerson qualche giorno fa, è la seconda volta che li ho visti dal vivo. Entrambe le volte mi sono piaciuti tanto e l'ho giudicati, per quanto sia brutta la parola, insomma, che sembra sia chissà cosa, li sto considerando come uno dei gruppi più interessanti, almeno del paesaggio sonoro italiano. Ma intanto li metto e poi ne parliamo dopo. Erano appunto i Polemica, il brano si chiama Man's Privilege, tratto da Breach, uscito ora nel 2018, registrato e prodotto da Ale Sportelli di Pisa e prodotto anche ovviamente dai Polemica stessi. Chi sono loro? Sono una band abruzzese, fondamentalmente un trio che fa la musica, ovvero Giulio Martino al basso, Vincenzo Vic Di Santo alla batteria e Zilvio alla chitarra e i synth, e alla voce ci troviamo niente po' di meno che Hilary Binder, che sarebbe, se per chi non conosce bene l'importanza della musica in certi circuiti, la batterista del ormai storico duo che ormai si è affermato, i Sabot. Parleremo poi dei sabots. Intanto esiste anche proprio qui su Radio Wombat, la potete trovare nei podcast, l'intervista che è stata fatta dopo il concerto che si è tenuto settimana scorsa. Per cui se vi interessano andate a sentire, è abbastanza esaustiva. Ho trovato interessante questo modo di fare musica con un certo tipo di voce. Sembra quasi, soprattutto questo effetto lo fa dal vivo, che la musica sorregga la voce, ma potrebbe essere anche il contrario. E questa è un po' la tematica difficile e ardua della serata. Ovvero mi è partito il viaggione ascoltando, soprattutto dal vivo, che hanno dei suoni molto più potenti e un atteggiamento ancora più punk di come si può notare in questo brano, ma insomma anche negli altri. Hanno fatto due dischi, questo appunto è il secondo in CD, il primo si trova invece solo in vinile. Comunque, ora ho divagato quindi insomma il succo è stasera, appunto loro sono stati un po' l'incipit per questo viaggio sia temporale che spaziale, attraverso musiche e modi di cantare di gruppi in cui sono le due componenti, musica e voce sia come interpretazione di parole, sia come demarcazione di importanza di un brano che ha un contenuto comunque abbastanza forte. E ascolteremo un po' qua e là le cose che mi sono venute in mente, non è assolutamente esaustiva. Tra l'altro, Man's Privilege è interessante perché come testo affronta ovviamente l'essere privilegiati ad essere uomini, ma attraverso tre punti di vista, attraverso tre spezzoni. Il primo è uomo in quanto persona razzista, quindi essere umano tutto. Il secondo come uomo ricco e il terzo è come uomo dal punto di vista sessuale. Insomma, i testi sono molto belli e molto belli sono i live dei Polemica. Il primo esempio che mi è venuto in mente e che mi hanno ricordato sia per la crudezza dei testi, ma anche come tipo di strutture musicali, sono la Rollins Band, che appunto è la band di Henry Rollins, il terzo cantante dei Black Flag, quello che insomma è diventato il più conosciuto cantante dei Black Flag, quindi roba degli anni 80 americana. E dopo l'esperienza Black Flag ha formato la sua band, che insomma credo sia un pochino egocentrica, anche attore, ha fatto ha fatto anche della televisione, un talk show suo con gruppi che suonavano. E questo pezzo è tratto da uno dei primi dischi, forse il secondo, che si chiama Hard Volume, uscito nel lontano 1989 per Texas Hotel, l'etichetta. In questo brano ci suonano quelli che per me sono rimasti i veri musicanti della Rollins Band, ovvero Chris Huskett alla chitarra, il grande Sim Kine alle batterie e percussioni e Andrew Wace al basso e ovviamente Rollins alla voce che spaccava tutto lasciandosi un certo modo che tra lo spoken word e la crudezza punk di essere cantante, insomma. Poi se non lo conoscete e trovate anche dei video su YouTube, c'è anche il famosissimo, epico per noi, tra virgolette, italiani e fiorentini, il concerto che che ci fu appunto negli anni 90 alla FLOG, registrato dalla vecchia Video Music. Lì potete capire un po' il soggetto, come cantava e gli altri come suonavano. Intanto beccatevi appunto questo pezzo tratto da che è il primo pezzo, da Hard Volume, e il brano si chiama Hard e secondo me spacca tutto. Appunto era Harry Rollins con la Rollins Band, e secondo me ha un po' lanciato nel punk e nell'hardcore, in quello che poi succederà dopo, un modo di fare vocale che ha ispirato veramente tanti. Ora, Io ho un sacco di pezzi che metto stasera, li metto perché me li hanno ricordati polemica, quindi sia musicalmente che vocalmente, quindi penso che in qualche modo siano anche un po' degli ascolti anche loro. Così come Rollins potrebbe essere servito ai polemica tutti, sicuramente è servito a lanciare dei gruppi anche tra i più conosciuti degli anni 90, per esempio i Rage Against the Machine, che sempre americani come la Rolling Band, sempre di LA, e nati appunto in un momento storico in cui i generi si miscelavano fra loro, nati appunto in un momento che si chiamava crossover, in cui appunto il funk, l'hip hop, il dub, il metal, il punk, l'hardcore, insomma, tantissimi generi si legavano tra loro, creando anche roba molto brutta. Ma in realtà con i Rage Against the Machine ha funzionato a meraviglia e hanno fatto dei grandi pezzi, dei grandi album, anche se non hanno fatto tanti. Il pezzo che vi metto è tratto dal primo, che è omonimo e ha vinto veramente tantissimi premi. Infatti è super famoso e ha reso poi famosi i Rage Against the Machine anche per tutti gli altri album. Il pezzo si chiama Settle for Nothing, appunto l'album è del 92 e ci ha ritrovato un po' una scia rollinziana. Father's eyes. Yes, I dwell in hell, but it's a hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped. To escape from the pain in an existence mundane, I got a night, a sign, a set, and now I got a name. Read my writing on the wall. No one's here to catch me when I fall. Death is on my side. Suicide. Shadow cell is freedom from the pain in my home. Hatred passed on. I can recognize, having never seen the color of my father's eyes. Yes, I dwell in hell, but it's a hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped. To escape from the pain in an existence mundane, I got a night, a sign, a set, and now I got a name. Catch me when I'm We'll settle for nothing later. We don't take action now. We'll settle for nothing later. We'll settle for nothing now. And we'll settle for nothing later. Erano i Rage Against the Machine. Ho saputo dalla regia che c'erano dei problemi audio, ma sono è ritornato il tutto. E noi andiamo avanti facendovi ascoltare una cantautrice che è tra le più sperimentali, è stata sperimentale soprattutto nei primi dischi, dove la voce è praticamente tutto, e si chiama Diamanda Galas. Appunto, Diamanda Galas è greca di origini, ma americana di fatto. Il pezzo in questione è un pezzo suonato in un disco che si chiama The Sporting Life del 94, attenzione alla data, poi vi spiego perché, insieme a John Paul Jones, che sarebbe il bassista delle Zeppelin, quindi anche lui aveva da dire delle cose con il basso. Secondo me lui è un grande, è stato il pezzo meglio delle Zeppelin insieme alla batteria, avevano questo approccio per i tempi incredibilmente potente, e da lì sono nate è nato un modo di suonare, appunto, come abbiamo sentito anche finora con la Rollins Band o Rage Against the Machine, con la ritmica ben piazzata e bombardona, insomma. E in questo pezzo, appunto, suona con anche un batterista, quindi e Diamanda Galas suona anche l'organo, se non sbaglio, o lo suona qualcun altro, non mi ricordo, non me lo sono segnato, ecco. Insomma, nel 94, tra l'altro, la cosa curiosa è che uscì anche il disco di Robert Plant e Jimmy Page, che si chiama No Quarter, con un'orchestra marocchina. Facevano anche vari pezzi delle Zeppelin, come appunto No Quarter, finalmente suonata con l'orchestra, con tanti strumenti etnici, cosa che ha dichiarato sia Page che Plant, avrebbero sempre voluto incidere come versione originale, quindi la fecero così, ma ahimè senza John Paul Jones e Bonzo, John Bonham alla batteria. Comunque, mentre loro facevano queste cose quasi autocelebrative, John Paul Jones vide bene di fare un album con Diamanda Galas, che è uno tra i più curiosi della discografia di entrambi i due mostri storici. Questa è proprio The Sporting Life, che è lo stesso pezzo che dà origine al nome del disco, e anche qui il discorso è quanto la voce influenza gli strumenti o viceversa. Buon ascolto. Now let's tie him up and cut him and then let's stop him and then let's kill him. Spider mommy. Dragona, dame la hierba. Por aquí, te llamo Crowpuff. Toma el cuidado aquí. Rafa. No hay de qué, bro. Ida, oh Ida, you went to that. Ida, gracias. Meriterebbe una puntata a parte, perché veramente ha fatto tante cose diverse, anche se negli ultimi anni i suoi album come i suoi live sono pianoforte e voce, tutto suonato da lei ovviamente, ma all'inizio fu acclamata e conosciuta per alcune cose di voce con quadrifoniche, con l'uso di quattro microfoni e come le sue quattro ottave di estensione, se non sbaglio, di con registrazioni di performance con a base di sangue e cattività, insomma, molesta. Per cui sapevo che suonò tanti anni fa al Museo Pecci e poi le proibirono di tornare in quella città a seguito di un live veramente pesante. Insomma, la persona che vi ha dato un input, insomma, se vi è piaciuta provate ad ascoltare qualcosa e non ve ne pentirete, perché è veramente una delle cantautrici più dotate in assoluto e che sono state di riferimento dagli anni 80 in poi per veramente una schiera di persone che si sono avvicinate a un certo tipo di musica sperimentale, vocale, diciamo. Così come era un esempio, un artista che mettiamo ora, che si chiama Nick Cave, ovviamente anche lui è conosciutissimo dagli anni 70, da fine anni 70, in piano post-punk con i Birthday Party, non ha mai smesso di suonare, ha fatto un disco anche, mi pare, l'anno scorso, due anni fa, è sempre attivo, sempre a suonare nei festival e nei tour, con il suo modo di esprimere testi che sono storie, anche lui appunto ci stava nella puntata, perché sono modi di interpretare e dire le cose tra il parlato e il cantato, sono figure così particolari che veramente hanno portato da esempio a tutti un come si può fare la musica in generale, un'originalità che prende spunto sempre dal passato, come in questo caso il blues, ma come un po' in tutta la discografia, e come il blues un po', pensavo prima, tiene come collante quasi tutto quello che stiamo ascoltando, però maltrattato e riportato o una sua forma di espressività autentica, o agli antipodi del blues stesso. Comunque, questo è From Earth to Eternity dell'87, il primo disco che ha fatto con i Bad Seeds, che poi ha portato avanti fino ad oggi via via alcuni elementi come Blixabargel, che era anche il frontman degli Einstürzen, de Neubauten, che ormai ha lasciato il gruppo da tanti anni, il gruppo di Nick Cave, i Bad Seeds. E qui era appunto il primo disco con questa formazione che gli ha portato tanto successo, quindi a conti fatti non è solo grazie a lui che conosciamo Nick Cave, ma anche grazie alla band, che era clamorosa. È soprattutto i primi dischi sono una fusione tra delirio testuale e delirio musicale. Bello, mi è piaciuta questa presentazione. Ora Nick Cave and the Bad Seeds, From Earth to Eternity, tratto da From Earth to Eternity dell'87, il loro primo disco. She lives in room 29. World's going right on the top of mine. I start to cry. I start to cry. When I hear her walking barefoot across the boards, all through this lonesome. With my ear to the ceiling. Listen, I know it must sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard. Yeah. Eh sì, ci vorrebbe una puntata pure su Nick Cave, ma boh, forse diventa troppo banale Hot Wheels, non lo so, potreste scrivere riguardo a questa questione, potete scrivere apposta wombat@insiberia.net o scrivere anche su Facebook o su Twitter, vedendo quello che capita di notizie, e guardando il sito che è wombat.blog.org. Pieno, farcito questa radio di alti contenuti che si va da, appunto, dai radiogiornali a riviste contenitori di letteratura e tanto altro, insomma. Sono tante, potete vedere appunto sul sito tutta la programmazione, ricordatevi che ci sono anche le repliche. Per cui date uno sguardo attento se vi piace questa radio e vorremmo tanto che diventasse sempre più conosciuta e sempre meglio. Per cui criticateci anche, insultateci, ci vuole poco. Andando avanti, tornando a un certo tipo di sonorità blues, ritorniamo anche in America. Questa sera è un po' collegata con un giro americano degli anni Ottanta. Abbiamo sentito la Rollins Band, i Polemica stessi hanno iniziato a, scusate, i Sabù hanno iniziato a fine anni Ottanta con appunto avendo fatto tesoro di tutto ciò che c'era di nuovo in questo periodo dal punto di vista punk e hardcore, dopo appunto il punk, dopo l'hardcore, in un periodo veramente prolifico da tutti i punti di vista, sia di band che di concetti, che di sonorità che sono proprio nate in quegli anni, fondamentalmente sia in Inghilterra che in America. Appunto è doveroso anche citare Greg Ginn, avendo ascoltato la Rollins Band, che sarebbe il fautore, il creatore dei Black Flag, il chitarrista, nonché produttore dell'SST, come i più attenti sanno. Abbiamo fatto anche una puntata quasi tutta dedicata a questa etichetta degli anni 80-90 americana, che è stata fondamentale. E questo pezzo ci stava, sì, secondo me sempre, credo sia solamente strumentale, quindi un cazzotto rispetto a tutto ciò che c'è di parlato, no, non mi ricordo perché sono un po' sbadato. E lui ha formato tra l'altro anche la Cruz Records, come questo disco. Questo disco è sotto Cruz Records, appunto, dopo l'SST, che è rimasta un po' congelata, e l'Alliance Records, tutte cose che sono nate a fine 90 e ogni tanto pubblicano ancora qualcosa. Nella seconda fase della sua produzione ha iniziato a fare più schitarraggio molesto. È sempre stato molesto con i suoi accordi che sono quasi free jazz, come sono stati definiti, scorrettissimi, stonati, diciamo, non in scala, ma questo è stato un po' la sua innovazione nella scena, tra virgolette, bassa, cioè quella di protesta, hardcore e punk. Insomma, ve lo faccio ascoltare. Questo pezzo si chiama Thing, è tratto da, oddio, ho perso, da Get in Heaven, proprio della Cruz Records, del 1993. Thank you. parlare di post Black Flag è difficilissimo e vastissimo. Anche qui un'altra puntata ci sarebbe, ci starebbe magari invitando colui che ha creato questo gruppo che vi farò ascoltare, che si chiamano Roba Nera, ovvero Gabriele Caggiano. Il fu primi due dischi della Quenta, che sono forse la band più lenta e pesante italiana a livello di doom, sludge, drone e derivati. E i Roba Nera sono usciti con due album, e il secondo, che è il pezzo che dal quale, non so, oddio, mi sono ingarbugliato. Comunque, il pezzo che faremo sentire stasera è tratto dal secondo album, che si chiama Meco Discordia, fatto uscire da Shove Records, che è una gran bella etichetta che produce esclusivamente roba potente. E, insomma, Roba Nera è un progetto che ha, già dal nome è dedicato a tutto quello che hanno fatto i Black Flag, è andato oltre, ma anche con tante influenze di gruppi stupendi come possono essere i Fugit Tunnel, i Kailesa, i Blast, i Melvins, insomma, quindi hanno mangiato roba pesante e veramente seria, Roba Nera, appunto. E questo pezzo è appunto tratto dal secondo disco, è del 2013, poi si sono fermati perché è entrato in questo disco a cantare Boris, che è anche il fautore dei Barbarian, nei quali si suona appunto la batteria anche Gabriele, che qui suona la chitarra, è il suo progetto di band neuronale, diciamo, delle sue passioni vere. E quindi, insomma, per ora sono fermi, mi auguro che ritornino più cattivi che mai. Questo brano si chiama Through Open Wounds, tra l'altro è interamente scaricabile da Bandcamp tutto l'album, e sentite un po' che bella roba. We'll be right back. l'atteggiamento crudo ma positivo, quasi divertente, dei polemiche che abbiamo ascoltato all'inizio e hanno dato un po' origine a questa puntata. Mi sono ricordato dei DOS e quindi nel viaggio che vi sto facendo percorrere vi voglio dire due parole su loro, che sono un progetto che è nato da una coppia. Erano, credo, sposati ai tempi. Sono Mike Watt, ovvero il grandioso bassista dei Minutemen, e poi Farose, e poi ha avuto mille progetti, ha fatto anche roba solista. Sta suonando, se suonano ancora, ma fino all'ultimo live era con gli Stooges, per cui insomma ha avuto una grande ascesa, pur rimanendo un po' fedele al suo modo di suonare e vedere le cose. Insomma, era questo progetto suo insieme a quella che era la sua compagna, che si chiama Kira Roessler, che era anche la bassista appunto dei Black Flag. Quindi si ritorna un po' in una miscela delirante tra gli ascolti che suppongo siano di polemica e poi tutto il giro del post-hardcore americano di fine 90, fine 80, primi 90. E questo duo si chiama appunto i DOS, erano due bassi e basta, a volte con la voce, in questo caso appunto c'è anche la voce. Fecero dei dischi, era un progetto divertito e forse importante soprattutto per loro e per lasciarci qualcosa. No, è troppo romantico il discorso, lo lascio stare. Comunque anni 80, fino agli anni 80, 1989, il disco è il secondo, che si chiama appunto Numero DOS, oppure Numero e Basta, uscito per la New Alliance Records, che appunto era quella con la quale ha avuto anche a che fare Greg Ginn. Il pezzo si chiama Don't Explain, era la prima traccia che è anche cantata. You're mine. consiglio a chi piace la trasmissione 8 Hz di ascoltare le puntate non dal cellulare o sul computerino senza essere attaccato a delle casse o un impianto perlomeno decente, insomma, con il quale potete sentire un po', non vi dico le sub-frequenze o le frequenze elettroniche inaudite, ma dove un po' potete capire le cose in sé. Insomma, questo pezzo era due bassi e voce, i bassi erano molto gonfi, facevano un po' tutto il sound, per cui possono essere sciupate da un certo tipo di impianto o non impianto, non avendoci nulla, è molto difficile capire queste cose, anche se appunto a parte se l'ascoltate direttamente su AM nella frequenza 1359, nella quale essendo AM è tutto un po' medioso, per cui pazienza, ma siete grandi a ascoltarla direttamente on air via onde radio. Non si poteva parlare dei Polemica, non potevo farvi fare un viaggio partendo da questa band senza farvi ascoltare i nomi in sono, che vi avevo già fatto sentire in qualche puntata o dell'altro anno, di due anni fa, non mi ricordo, che sono un gruppo canadese originario di Victoria ma poi trasferiti a Vancouver. Era un power trio che iniziò già nel 79 appunto in Canada, ma poi legati tantissimo all'America, uscirono per l'Alternative Tentacles, anche così come il brano che vi farò ascoltare. Nato da questi fratelli Wright, John Wright alla batteria e Rob Wright al basso e voce, e poi i primi tre dischi c'era un altro chitarrista, e dopo c'è stato questo Tom Ollison che da lì all'eternità, ritornando a Nick Cave, ha suonato in tutti gli altri dischi. Mi ricordo c'era un ragazzo che conobbi tantissimi anni fa che fece questo discorso un po' strano, ha detto: no, io non mi insegno, non lo ascolto più da quando non c'è più il primo chitarrista. Io ho pensato, cioè da veramente niente, perché insomma c'è stato veramente solo all'inizio, e dopo hanno fatto tantissimo. Hanno tra l'altro avuto il coraggio di dire che nel 2016 hanno detto: sai che noi ci ritiriamo e non suoneremo mai più insieme. Ora vediamo se è vero, ma intanto è stato molto coraggioso da dire. La loro missione è finita un po' alla Throbbing Gristle, anche se poi pure Throbbing Gristle ripartirono in missione, per cui sai, le missioni sono strane. E non mi aspetto che ritornino, ho avuto la fortuna di vederli varie volte dal vivo, erano tra le cose più entusiasmanti e potenti che ci potevano essere nella loro cosa, poco chitarristica, zero metal, molto punk a suon di sferragliata di basso più che di chitarre, di virtuosismi di batteristici incredibili. Tra l'altro, quando li vidi al vivo soprattutto la prima volta, pensai: questo batterista veramente, cioè, beve, perché bevevano tutti pinte di birra a manetta, e suonava con una precisione e una potenza inaudita. Erano già vecchiotti, altre voci dicono: no, ma i nomi in solo sono sempre stati vecchi, cioè li vedi dal vivo sembravano dei vecchi, come vedere vecchi, insomma, tuo padre che suona queste cose. E dicevo: cacchio, il batterista suona e zitto, perché veramente era una roba fuori dal comune. Questa è My Politics, guardo un po', di che anni era, appunto del 95, sotto Alternative Tentacles, tratta da The Worldhood as of the World as Such, tra parentesi, un titolo difficilissimo per me che sono poco dotato nell'inglese e non in altre cose. No means no, my politics. Don't ask me what to do. Your feet, and you're on grandi, grandissimi nomi in snow. Siamo arrivati alla fine e finalmente vi faccio sentire i Sabot, questo duo appunto di Hilary Binder alla batteria e Christopher Rankin al basso, americani ma poi spostati dopo pochissimo della loro attività, si sono formati nell'88 ma nei primi 90 si spostarono in Repubblica Ceca, dove sono rimasti come appoggio, ma hanno sempre girato per gli squat di tutta Europa e di tutto il mondo. E sono stati un gruppo importante per far capire alle persone che si poteva fare, a suonare così si poteva fare e si poteva suonare così, intransigenti, soli contro tutti, ma in realtà hanno vinto perché si sono creati una schiera d'amici illimitata. Questo pezzo è del 2005, è del penultimo disco uscito per Cesta, non credo si dica così, che la loro etichetta, era la loro etichetta appunto Ceca. Il disco è tratto da D.I.O., che appunto è simile a Do It Yourself, ma Do It Ourself. Il pezzo si chiama Mi Tarda, nell'ultimo del disco D.I.O. Buon ascolto, noi ci sentiamo settimana prossima, loro sono i Sabot.